ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. In primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, sono le 7:34 minuti. Insieme vediamo le prime pagine dei quotidiani e quanto riusciamo a leggere delle pagine anche interne oggi. E iniziamo subito dal Sole 24 Ore, a tutta pagina, Visco, Italia arretrata agli anni 80. L'allarme di Banca Italia, l'emergenza sanitaria, leggiamo, ha fatto arretrare il PIL di metà 2020 ai livelli del 1993, mentre quello pro capite è retrocesso ai livelli del 1980. Per tornare su un sentiero di crescita sostenibile dopo l'emergenza Covid-19, l'Italia ha bisogno di riforme di sistema, capaci di creare un ambiente più favorevole alle imprese. Imprese e forti investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nella innovazione. Questo è il messaggio che ha lanciato il governatore della Banca d'Italia Visco nel corso dell'intervento all'Euroscience Open Forum 2020 di Trieste. Secondo Visco è fondamentale puntare sulla conoscenza, sulla tutela dell'ambiente, sul recupero di produttività. Così da Sole 24 Ore, appunto, questo è il tema di apertura. Al centro pagina, fotonotizia, mercati, Wall Street paga il calo del Nasdaq. Negli Stati Uniti la corsa dei top manager a vendere le proprie azioni. La fotografia, appunto, è proprio quella della borsa di New York, dove sotto pressione Wall Street è trascinata al ribasso dal Nasdaq, i prezzi, che ieri è arrivato a perdere oltre il 4% per poi recuperare però nel finale, i prezzi sono ritenuti sopravvalutati e invogliano alle prese di profitto. Sorprende il dato delle vendite di azioni proprie dei manager delle aziende statunitensi in agosto, 6,7 miliardi di dollari. Chi meglio di loro poi, appunto, si chiosa nell'articolo di Andrea Franceschi, chi meglio di loro conosce lo stato delle aziende americane. C'è anche un editoriale oggi del direttore Fabio Tamburini, la lezione della Francia, i ritardi del governo. E qual è il tema? Beh, il tema è appunto quello del confronto tra Italia e Francia. La Francia, dice Tamburini, vuole, o meglio, il presidente della Repubblica Francese Macron punta a soffiare all'Italia il secondo posto nella classifica delle industrie manifatturiere europee. A che punto siamo? Per il momento l'industria manifatturiera italiana resta seconda dietro la Germania per valore aggiunto e dipendenti. Nonostante ciò, la Francia è un concorrente da tenere d'occhio e, considerando i ricavi, che però non sono l'indicatore più significativo, può perfino vantare il sorpasso. Ora però si stanno creando le condizioni per l'arretramento della produzione italiana, scrive Tamburini, che rischia di segnare la differenza. Proprio ieri due notizie di giornata confermano le preoccupazioni. L'allarme del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sull'andamento del prodotto interno lordo e la ricerca promossa da Fondazione Fiera Milano sull'andamento negativo dei ricavi dell'industria italiana, che è stato diffusa al Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este. E quindi segnali chiari e concordanti, per questo al governo italiano va ricordato il proverbio «uomo avvisato, mezzo salvato». Prosegue poi il direttore nelle pagine interne, ma noi che abbiamo sempre problemi di tempo corriamo alle pagine del Corriere della Sera. Apertura su il ricovero di Berlusconi in ospedale per il virus. Nuovi contagi ancora in aumento, ieri sono stati 1733, ci ricorda il Corriere. In Italia l'indice RT sale a 1,18, crescono i positivi con sintomi e, per quello che riguarda Berlusconi, ha un inizio di polmonite. Zangrillo, il medico, dice, un paziente a rischio, ma la situazione è confortante. Sul Corriere della Sera, come su molti altri quotidiani oggi, si ricorda poi la protesta, diciamo così, della figlia Barbara, che rivendica: non sono io l'untrice di Silvio Berlusconi, non sono io l'untrice, nessuna vita sregolata, lo sfogo di Barbara Berlusconi, che appunto ritroviamo sul Corriere, molto dettagliato poi nelle pagine interne, ma è un po' su tutti i quotidiani. Al centro pagina la fotografia dell'attrice cinese Liu Yifei, che interpreta l'eroina Mulan. La sua difesa della polizia di Hong Kong ha provocato la reazione degli attivisti. La vera Mulan è una di noi, insomma, dicono. Divide l'Asia. Liu Zhifei, l'attrice che interpreta l'eroina nel film della Disney, si è schierata a fianco della polizia di Hong Kong. La vera eroina è un'altra, è la risposta degli attivisti dell'ex colonia britannica. Se così giriamo un po' le pagine del Corriere della Sera, arriviamo a una delle tante che sono dedicate alla epidemia e alla ripartenza. Si segnala a pagina 7 il vaccino russo, perché sono positivi i primi risultati. La notizia è di ieri e ne ha scritto la rivista medica britannica The Lancet. Il vaccino messo a punto in Russia contro il coronavirus sta dando buoni risultati, ha scritto nella sperimentazione di fase 1 e 2 l'articolo di Monica Ricci Sargentini. Ha provocato una risposta immunitaria in tutti i 76 soggetti coinvolti. Ora si aspettano gli esiti dei test di fase 3 su 40.000 persone che sono iniziate alla fine di agosto e dovrebbero dare risposte già il mese prossimo con l'avvio della vaccinazione contro il Covid-19 nelle intenzioni già alla fine di quest'anno. Quindi si bruciano un po' le tappe per questo vaccino. La cattiva notizia, però, scrive Ricci Sargentini, è che la pandemia non si arresta. I contagi nel mondo sono arrivati a oltre 26 milioni e l'Unione Europea ha paura di una nuova chiusura delle frontiere tra i Paesi membri, come ha fatto il 1 settembre l'Ungheria, e cerca di correre ai ripari preparando una mappa unica che fissi criteri comuni per definire le zone rosse al fine dell'applicazione di eventuali misure restrittive alla libera circolazione delle persone. Proponiamo un approccio comune per ciascuna misura restrittiva del movimento delle persone, ha detto ieri la presidente della Commissione Europea von der Leyen presentando la proposta. A nessun cittadino UE dovrebbe essere negato l'ingresso in un altro paese UE. Invece noi raccomandiamo ai governi di usare i test e la quarantena. C'è poi un'intervista al professor Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Si parte dai nuovi casi registrati ieri, nelle nuove positività, oltre 1.700, bisogna avere paura. Risponde Brusaferro, i dati di questi giorni sono dovuti ai comportamenti di agosto, però rispetto ad altri paesi europei il numero di casi è ancora più contenuto. Se vogliamo che non salgano e che la curva abbia un aggiustamento positivo, dobbiamo inserire stabilmente nella nostra vita quotidiana le oramai note regole dell'igiene delle mani, personale e degli ambienti, del distanziamento interpersonale e dell'uso della mascherina. Non paura, servono attenzione, consapevolezza e saper convivere con questo virus. L'intervista poi ovviamente prosegue, ma ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica. Tutta pagina, Silvio, paziente a rischio. A San Raffaele per la polmonite da coronavirus, ma respira senza aiuto. Barbara, non è colpa mia, eccola qui anche Barbara Berlusconi. Forza Italia al voto senza leader, teme le diserzioni, aumentano i contagi in tutto il paese, sono 1733. E poi c'è il riferimento ai primi documenti, cioè la prosecuzione, insomma, della desecretazione dei documenti del comitato tecnico scientifico di tutte le sue riunioni nel periodo dell'inizio dell'insorgenza della epidemia. Ne dava conto anche il Corriere della Sera, anche qui due pagine c'erano e altrettante ne troveremo sulla Repubblica ma anche sugli altri quotidiani. Il governo ordinò di tenere segreto il piano per la pandemia, scrive Repubblica. E ci sono poi tutti i dettagli, vi leggo giusto qualche passaggio prima di dare lo spazio alla viabilità, qualche passaggio dell'articolo che troviamo su Repubblica. La firma è di Michele Bocci, Fabio Tonacci, Alessandra Ziniti e Corrado Zunino. L'inchiesta, quei verbali di marzo, sul posto di lavoro non serve la mascherina, si leggeva tra l'altro. I 95 verbali del Comitato Tecnico Scientifico, finalmente desecretati, raccontano i 165 giorni che ci hanno cambiato attraverso sottovalutazioni, errori e scontri degli scienziati del CTS con il governo, minacce di dimissioni in blocco e anche illuminazioni di questi epidemiologici, igienisti e pediatri che per la prima volta nella vita hanno dovuto correre come mai fatto. Pressato dalla pubblica opinione, fatta anche di opposizioni e familiari delle vittime del Covid, il premier Giuseppe Conte ha deciso che l'Italia può conoscere le prime 95 riunioni. Oggi siamo arrivati alla seduta 104 che si sono svolte, a volte lui presente, nella sala Situazione Italia della Protezione Civile, dal 7 febbraio al 20 luglio. Dentro ci sono alcuni omissis su cui ora si inizierà a chiedere ulteriore luce. Le prime 5 settimane di verbali mostrano un comitato tecnico scientifico sorpreso e frastornato dalle notizie che arrivano dalla Cina, sotto le quali viaggia per diversi giorni non scoperto il Covid-19. Si capisce dalla prima seduta, venerdì 7 febbraio, che i 9 presenti, coordinati da Agostino Miozzo, medico con lunghi trascorsi nella Protezione Civile, non sanno che cosa sta arrivando. Le disposizioni fin qui adottate, si allude al blocco degli aerei dalla Cina e le prime limitazioni alle gite scolastiche, rappresentano un argine adeguato per il nostro paese. Si comprende, come ha già raccontato a Repubblica lo stesso Miozzo, che la crema degli scienziati nazionali, a ogni riunione più numerosi e preoccupati, viaggiano a vista e a volte sbagliano. Nella prima riunione hanno applaudito al blocco dei voli, ma al verbale del 14 febbraio, quarto incontro, è la stessa l'Italia a parlare di limiti all'attuazione di queste procedure. Diversi passeggeri, spiegano i tecnici aeroportuali, possono accedere ai voli in area Schengen presentando la sola carta d'identità e non il passaporto con i timbri del paese di provenienza, nel caso la Cina, eludendo il controllo di date e delle aree di partenza. E via via, appunto, prosegue questo articolo, pagina 7. Noi diamo spazio alla viabilità e torniamo tra pochissimo. In primo piano. E alle 7.46, ancora una buona giornata da Laura Bettini, proseguiamo con La Stampa. Boom di contagi, corsa ai tamponi, Berlusconi è un paziente a rischio. De Benedetti, auguri, ma è un imbroglione. La rabbia della figlia Marina, un uomo da commiserare. Infatti, appunto, De Benedetti ha avuto occasione di affermare che di augurare ovviamente la guarigione a Berlusconi, ma che il giudizio su di lui non cambia, che ha, mi par di ricordare le parole precise, erano: ha abbassato il livello civico e morale di questo paese. Ecco, questo era il senso delle parole pronunciate da Carlo De Benedetti, e quindi poi scoppiano ovviamente la protesta, la bagarre politica, la risposta della figlia Marina, un uomo da commiserare, ha detto. Sempre dalla prima pagina della Stampa si ricorda il requiem per le vittime, emozione in Duomo a Milano, il concerto con Mattarella. Milano riparte da qui, da quel podio rosso sotto l'altare maggiore, da quei 4 cantanti, da quel coro, da quell'orchestra che suona con le mascherine davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Egle Santolini sulla Stampa. Favino Salvini, scontro sul Padre Nostro, la mostra di Venezia in prima pagina sempre della Stampa. La politica si fa in 4 per la mostra, e così, in assenza di star hollywoodiane, è toccato ieri al leader della Lega Salvini il compito di animare il clima solitamente effervescente dell'imbarcadero dell'hotel Excelsior. Se la fotografia Excelsior, la fotografia è quella di Matteo Salvini con la compagna Francesca Verdini. Sulle pagine della Stampa un'interessante intervista che non abbiamo tempo di leggere, ma voglio segnalare a Massimo Galli, professore di malattie infettive alla Università Statale di Milano. Test in classe per essere tempestivi, un'utopia la mascherina per i bambini, non ci sarà una seconda ondata, ma in autunno qualche focolaio sarà inevitabile. Questi alcuni estratti dell'intervista a Galli, infettivologo all'ospedale Sacco di Milano, sulla Stampa di oggi. Sulla Stampa si ospita anche un reportage molto bello, molto interessante, su cui riflettere, dalla Polonia, di Francesca Paci, inviata a Varsavia. La crociata della Chiesa polacca, cliniche per convertire i gay. Mentre a Varsavia sfilano gli attivisti per i diritti civili, nelle campagne si grida il complotto della minoranza LGBT. Si rafforza l'alleanza tra governo e le gerarchie cattoliche. Difendiamo la famiglia tradizionale, curiamo gli omosessuali. Questo accade in Polonia. Sul quotidiano nazionale l'apertura è dedicata con una fotonotizia a Barbara Berlusconi, basta fango, forza papà, le accuse di avere contagiato il padre, lui è in ospedale con la polmonite, i medici dicono è un paziente a rischio, ma come abbiamo sentito appunto le sue condizioni sono al momento stabili e sotto controllo. Però anche qui Barbara Berlusconi si difende, ma l'apertura del quotidiano nazionale è dedicata ad altro tema, sei asintomatico, non puoi lavorare. Il paradossale diktat nei decreti contro il Covid. Chi è positivo ma non malato è escluso perfino dallo smart working. Aumentano i contagi e i ricoveri e l'inchiesta, giovani scossi da virus e lockdown si rifugiano in casa e non affrontano il mondo. E qui vi voglio segnalare sulla questione positivo ma sano vietato lavorare anche con lo smart working, l'articolo di Claudia Marin che appunto ci riferisce: positivi ma asintomatici non si può lavorare neanche se si sta bene e si può farlo in isolamento da casa. La prescrizione che equipara la positività al coronavirus, alla malattia, sempre e comunque prevista dai decreti e dalle circolari del lockdown, rischia di rivelarsi un vero boomerang in queste settimane di ripresa del contagio. I costi personali, anche retributivi e professionali per i singoli, quelli delle aziende, quelli dell'economia italiana e delle casse dell'INPS derivati da una norma di questa natura possono essere esponenziali in vista della seconda ondata autunnale di contagi. Nelle stesse pagine si ricorda però appunto l'effetto che il lockdown ha avuto sui giovani e che adesso si cominciano a vedere in maniera molto evidente. La psicologa e i ragazzi chiusi in casa soffrono la sindrome della capanna. L'isolamento forzato ha messo a dura prova liceali e universitari, togliendo la voglia di futuro. Per uscire dall'impasse si torni alla routine. Basta con le ore piccole, guai ad adagiarsi in poltrona. Insomma, sembra proprio che tanti giovani abbiano così deciso di stare a casa anche adesso che potrebbero andare in giro con le precauzioni di cui abbiamo detto prima: mascherine, disinfezione delle mani, una certa distanza fisica dagli altri, e allora bisogna in qualche maniera intervenire, aiutarli, cercando appunto, dice la psicologa intervistata, che è Francesca Mugnai, psicologa incaricata al Meyer e docente all'Istituto di Alta Formazione di Psicoterapia Familiare IAF di Firenze. Bisogna aiutarli convincendoli, insomma, a non fare le ore piccole ma a muoversi come se il giorno dopo si dovesse tornare in facoltà o in biblioteca o a scuola, cosa che peraltro tra non molto accadrà per i liceali in particolare. Bisogna guardare al futuro. Il giornale: Berlusconi, il virus fa paura ma De Benedetti lo insulta. Zangrillo, il medico, dice a rischio per l'età e le malattie pregresse, ma il quadro è confortante. Schiaffo vergognoso dell'ingegnere, dice un imbroglione, vi abbiamo già detto di questo. La figlia Barbara, non sono l'untrice, contro di me attacco disumano. Questa tutta pagina su il giornale, che poi ci ricorda di Ratzinger, il papa più longevo della storia, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche qui a Radio 24. E quindi passiamo al Messaggero, agenzie, Conte ignora Roma, brevetti e intelligenza artificiale, il governo candida Milano e Torino, bene l'asse del nord-ovest, Campidoglio e Regione tacciono, Rutelli, capitale tagliata fuori per mancanza di proposte serie. Allora, qui cosa ci si riferisce? Bene, alla questione appunto che la possibilità che Milano ospiti il Tribunale dei Brevetti e Torino quello per l'intelligenza artificiale, due agenzie europee che avevano sede a Londra. Bene l'asse del Nord-Ovest, Campidoglio e Regione invece tacciono, quindi qui ci si ritorna a Roma. Nessuna reazione da Raggi e Zingaretti, mentre Francesco Rutelli, l'ex sindaco di Roma, dice al Messaggero: la capitale è tagliata fuori per mancanza di proposte serie. Bisogna creare incentivi per attirare nella nostra città nuovi soggetti pubblici. Così il Messaggero, che in prima pagina porta una notizia che altri quotidiani non certo in prima riportano: la Federazione Brasiliana di Calcio ha detto sì alla parità salariale tra le donne e gli uomini della nazionale di calcio brasiliana. Il manifesto sceglie, al di là di un richiamo ovviamente alla questione Covid, record di nuovi casi nella fase 2, sceglie una fotonotizia e una notizia in particolare davvero interessante e nuova rispetto alle altre prime pagine. Ci riporta a Edward Snowden, il volto è quello di Edward Snowden e il titolo è "Ha fatto bene". Una corte d'appello americana ha stabilito che il programma di sorveglianza della National Security Agency americana, NSA, era illegale e che le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 hanno provocato un dibattito pubblico significativo sulla raccolta di dati da parte del governo degli Stati Uniti e che insomma, in sostanza, Edward Snowden, pur tradendo il patto di segretezza, fece bene a dire quello che stava accadendo. Andiamo ad Avvenire, un'altra economia creativa e solidale. Il Papa chiede di sviluppare nuovi modelli con al centro persona e conversione ecologica. Il messaggio al Forum Ambrosetti invita a superare il paradigma tecnocratico per ripartire. Un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto della persona e dell'ambiente, un'economia intesa come legge della casa del mondo, che non generi diseguaglianze e non abbia come unico traguardo il profitto. Papa Francesco ha scelto di inviare un messaggio ai partecipanti del Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si è aperto ieri, per invitare il mondo dell'economia a riflettere sulla necessità di un cambio di prospettiva, reso ancor più necessario dall'emergenza sanitaria e nazionale. Questa è l'apertura di Avvenire, che poi ricorda la situazione a Beirut, in Libano. Parolin, nella capitale, porta la solidarietà della Chiesa. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, è giunto giovedì a Beirut per partecipare alla giornata di preghiera e digiuno per il Libano, indetta dal pontefice a un mese dall'esplosione che ha devastato la capitale del Libano. Io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore. Progetti di pace e non di sventura, è la citazione dal profeta Geremia con cui inizia il testo del Papa. Il Fatto Quotidiano, ovvero Berlusconi va in ospedale, accuse a Zangrillo e rissa tra le figlie, così riassume la situazione il Fatto Quotidiano. Alla polmonite senza complicazioni, suo medico contestato per i ritardi nelle cure, lite tra Barbara e Marina, quel virus è spietato senza prescrizione. E questa l'apertura di Libero, infine vi leggo molto rapidamente negli ultimi secondi, sono andata un po' troppo lunga. Impazza ancora il virus e gli italiani scioperano. Sindacati, studenti, prof e gretini non pensano alla ripresa, ma a manifestare. Gli esperti avvisano: chiudere alla Cina, terapie intensive scarse. Il Covid non ci ha insegnato nulla, e qui appunto è preciso l'attacco alle manifestazioni, gli scioperi che sono stati annunciati. Ma noi ci dobbiamo fermare. C'è GR24, ci ritroviamo con Si può fare alle 8.30 da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.